voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Fredo, you're my older brother, and I love you. But don't ever take sides with anyone against the family again. Ever. Thank you. Che fosse vigilante se ne faceva capace dal fatto che la testa gli funzionava secondo logica e non seguendo l'assurdo labirinto del sogno. Che sentiva il regolare sciabordio del mare, che un venticello di primalba trasiva dalla finestra spalancata. Ma continuava, ostinatamente, a tenere gli occhi inserrati. Sapeva che tutto il malumore che lo maceriava d'intra sarebbe sbommicato di fora, appena aperti gli occhi, facendogli fare o dire minchiate, delle quali, dopo, avrebbe dovuto pentirsi. Questo era l'incipit della gita a Tindari, di Andrea Camilleri. Lo ammetto di fronte a tutti coloro che in questo momento stanno ascoltando Eclettica. Ho perso la testa per questa donna. Professionalmente parlando, ovviamente. Soul Seppi appena ascoltata con Slow Fuzz. Artisticamente parlando, non perché io abbia visto le sue foto, assolutamente. E ridiventando improvvisamente professionale, vi voglio parlare di una novità che vi state per ascoltare all'interno di Eclettica. L'etichetta è una piccolissima etichetta di nome Green UFOs, gli UFO verdi. Il progetto si chiama At Swim Two Birds ed è un progetto in uscita in questo mese di aprile ed è il progetto dietro cui si nasconde Robert Kegley, quindi non è un gruppo At Swim Two Birds ma semplicemente uno pseudonimo. Chi è Robert Kegley? È semplicemente il cantante del duo di Manchester di nome The Mongolfier Brothers. As the sun rose up into the sky and all I could hear was birdsong. And the hackneyed tones of Radio One, I knew something was wrong. And as I lay and tried to remember, with tightly closed eyes, I felt soft, warm fingers trace a course from the small of my back to the inside thigh. By Jove, blue. Pretend you're asleep. In bed with your girlfriend again. I recall a bottle of vodka in Mastermind's friend. And a strange party piece with a Swiss army knife with me and your girlfriend. Is she your wife? I know my bedroom's white and this one's green, with posters of bands I hate. And there's a whiff of petunia, and I know it's not me. An air of and as a breast or two squash into my back, a rambling yawn floats over. And it smacks me in the mouth just what this is all about. Best friend, I've never done this sort of thing before, and I swear I was drunk. Believe the depths to which I sung. Now I know it's been hard and I know I've been weak, but with your job and the bills, well, you can't blame me. It's just one of those things, we'll see it through. from this second on, it's just me and you. And as the chirps of cocks salt my ears, a rambling hand takes over. And I contemplate murder in the scene of the crime, but the guilt and the victim weigh heavy on my mind. Perhaps a simple diversion, a leap and I'm gone. Deny it ever happened is the drug she's on. Lining the stairs and down through the hallway. And as I turn to confront her, to tell her the truth, those eyes. That mouth, those shoulders, those shoulders. I'm in bed with your best friend. With your best friend, I'm in bed with your best friend. Nuttata fitusa, infami, tutto un arrammazzarsi, un votati e rivotati, un addrummisciti, un arrisbigliati, un susiti, un curcati. E non per colpa di una mangiatina eccessiva di purpi a strascina sali o di sarde a beccafico fatta la sera avanti, perché almeno uno scascione di quella affannata insonnia ci sarebbe stata. Invece, no signore, manco questa soddisfazione poteva pigliarsi. La sera avanti aveva avuto lo stomaco a così stretto che non ci sarebbe passato manco un filo d'erba. Questo era l'incipit del Giro di Boa di Andrea Camilleri. Indict me, I just don't care anymore. They've pushed me too far, too far. They've pushed me too far, too far. Stagione numero 13, settimana numero 30, volume numero 2. Indice 120 Days, Coco Rosie, Audrey, Giuliano Dottori, Tinari Wen, The Wisdom of Harry, Khan, Bad Odds, Soul Seppi, At Swim to Birds, I Like Trains, il film The Godfather, Gli Incipit, La concessione del telefono, La forma dell'acqua, La gita a Tindari, Il giro di boa, Tutti e quattro, di Andrea Camilleri.